Globetrotter 24 di Annarita D'Ambrosio e Valeria De Rosa. Ben ritrovati tutti voi, ben ritrovata Annarita. Ben ritrovata Valeria. E allora eccoci qui, ormai l'estate avanza, speriamo anche le vostre vacanze, magari non per tutti, però da un po' di tempo a questa parte non sono pochi quelli che scelgono di fare le ferie in luglio. Io stessa, se posso, vado a luglio perché c'è meno gente, perché costa meno, fattore da non sottovalutare, e perché avendo un bambino abbastanza piccolo e abbastanza agitato, preferisco andare in periodi in cui c'è meno affollamento e quindi meno persone da disturbare. E allora Annarita, come sempre, cominciamo dai titoli perché i titoli sono il nostro inizio e così vi anticipiamo dove vi porteremo. All'estero vi portiamo a Figueres, sulle strade di Dalì. In Italia vi traghettiamo nelle isole Egadi, la Sicilia selvaggia dove ci si immerge e si fa trekking. Centro a chilometro quasi zero, l'abbazia di Casa Maria, 100 km da Roma, uno dei più importanti monasteri del paese. Nord a chilometro quasi zero, l'abbazia della Novalesa, storia e semplicità a portata di mano. Siamo mistiche in questa puntata, Valeria. Abbastanza, ma ogni tanto non fa male. Valeria, come detto, ti porto nella calda Spagna, tra l'entroterra che di questi tempi non è caldo, è caldissimo, però è molto affascinante, e un mare che non ti aspetti perché siamo sulla Costa Brava. Questa è una canzone bellissima, una canzone dei Ciambao, Valeria, cantata da Ricky Martin. Io ci sono stata 3 anni fa in visita al cosiddetto itinerario Dalì, da Figueres a Port Ligat a Cadaqués. Ho speso poco, ho volato low cost, siamo a pochi chilometri dalla frontiera francese e per convincerti a visitare questi posti, con tutta la famiglia ovviamente, ne ho parlato con la scrittrice e giornalista Claudia Cucchiarato, che vive da anni a Barcellona e che di questo itinerario ha scritto anche per il Sole 24 Ore. In realtà è un itinerario per una regione intera, volendo le opere di Dalì si possono trovare in molti punti, ma soprattutto quello che si può cercare in questo itinerario è l'ispirazione, gli elementi che ispiravano Dalì. E si parte da Figueras perché poi è il posto in cui Dalì nacque e in cui ha passato la maggior parte della sua vita, e dove c'è il Museo Dalì e Gala, che è uno dei punti più interessanti in cui si possono vedere più cose, la maggior parte delle sue opere è esposta lì, ma poi appunto ci si può spostare verso la costa, che c'è questo paesino bellissimo della costa catalana che si chiama Cadaqués, che è uno dei punti, la perla del Mediterraneo catalano-spagnolo, e poi ci sono altri 2 o 3 paesini di tutta questa zona che si chiama Alt Empordà, che è la zona appunto in cui lui visse e che l'ha ispirato profondamente e dal quale lui non si è mai separato, anche se non ci ha sempre vissuto, e che aiutano anche a capire moltissima della sua arte e moltissimo della sua anche eccentricità. Claudia, io tendo a segnalare i posti nei quali sono stata, e a Figueres sono stata. Ecco, del museo da lì colpiscono tantissimo questi colori, l'uovo, che è un po', insomma, la particolarità di Dalì, e poi il museo, lo ricordiamo, è situato all'interno di un vecchio teatro. Sì, era un teatro in rovina, un teatro completamente dismesso, nel quale Dalì si è impuntato, che quando lui lo vide che era messo così male, ha deciso di trasformarlo, e in realtà anche questo, il fatto che sia un vecchio teatro, parla un po' della sua arte, perché lui mette in scena, no, un'esposizione di opere d'arte, però in realtà è un'esperienza di tutti i sensi, non è solamente un'esperienza visiva, si vive. È una specie di messa in scena teatrale quella che lui ha fatto con le sue opere d'arte, perché spesso e volentieri alcuni quadri di Dalì, ricorderanno gli ascoltatori che ce ne sono alcuni in cui si guarda il quadro, si vede all'inizio una cosa, poi guardandolo più intensamente se ne vedono delle altre, no? Questi effetti ottici che lui studiava e soprattutto eseguiva con una maestria quasi da genio, che era lui, no? Quindi c'è molto interazione con lo spettatore, quindi si tratta in realtà proprio di un'opera di teatro sostanzialmente, quindi non c'era forse nessun luogo migliore a Figueras per mettere in scena questo suo museo fondazione Gala Dalì. Lui però non viveva in questo palazzo, quindi lo acquistò solo per il museo? Sì, no, in realtà non credo l'abbia acquistato, era ceduto dal comune di Figueras, in accordo con il comune di Figueras e in coproprietà con la fondazione Dalì Gala. In realtà c'è anche un po' di, ci sono diverse opinioni ovviamente su questa questione, però Dalì era un po' famoso per essere molto tirchio e quindi aveva accumulato una grandissima fortuna. Lui in realtà che poi, essendo non avendo eredi, ha lasciato la città di Figueras e ha lasciato questa fondazione, e quando lui decise di mettere in quel posto, di fare in quel posto il suo museo, la sede della sua fondazione, credo che arrivò ad un accordo con il comune, ma non lo acquistò mai. Ed oggi questo museo è il secondo più visitato di tutta la Spagna. Sì, ovviamente Dalì è uno dei punti di riferimento dell'arte spagnola di tutti i tempi, e a livello anche moderno, anche perché ha un'arte che piace un po' a tutti, è un'arte che veramente coinvolge grandi, piccoli, adulti, persone colte, persone poco colte, è un tipo di arte che, a differenza di, che ne so, anche dello stesso Picasso o di Miro per esempio, che sono anche questi musei molto visitati, o tutte le opere che ci possono essere al Prado, a Madrid, eccetera, però Dalì appunto a questa parte ludica. Quindi tu anche da mamma, da neomamma, lo suggeriresti, suggeriresti Figueres come meta per una famiglia? Sì, senza dubbio, non solo perché appunto Figueras c'è il museo Dalì, e poi anche, non è solo il museo, non so se tu l'hai visto, anche in tutte le strade circostanti al museo e anche in molte piazzette, molte stradine, ci sono dei ricordi, delle statue, delle rimembranze daliniane, in tutta la cittadina si possono vedere queste cose di Dalì, e spesso sono delle esperienze giocose, delle esperienze che i bambini adorano, no? Tutti questi colori, queste uova che all'improvviso saltano fuori. Credo che sì, per i bambini questo sia bellissimo e anche molto divertente, poi perché comunque è molto vicino Figueras alla Costa Brava e a tutte le spiagge bellissime che ci sono nella costa catalana del nord, tra le quali appunto Cadaqués, che è questo posto meraviglioso in cui da lì passava l'estate, e tutta la zona di mare che c'è per i bambini è bellissima. Quindi lui a Figueras non dormiva, diciamo, nella zona del museo, ma dormiva in un hotel che è poi a 100 metri dal museo, sempre nella stessa stanza. La stanza 101 dell'hotel Duran si chiama, lui dormiva lì. Quando andava a Figueras si alloggiava in questo hotel. Tra l'altro lui aveva questa macchina, un Cadillac penso fosse, sì, d'epoca, condotta appunto dal suo chauffeur. Lui faceva spesso e volentieri questo tragitto da Figueras appunto a casa sua, che in realtà era attaccato a Cadaqués, che è in questo paesino minuscolo che si chiama Port Lligat, dove c'è appunto adesso la sua casa, che è anche quella visitabile, la casa museo di Dalì, e lui faceva spesso e volentieri questo tragitto, e siccome però la strada che conduce da Cadaqués, Port Lligat, fino a Figueras è una strada completamente buia di notte, con moltissime curve, che passa in mezzo a un parco naturale, che è il parco naturale del Cap de Creus, che è uno dei più belli della Spagna, anche quello da visitare, e era una strada anche abbastanza pericolosa di notte, quindi quando si faceva molto tardi e lui era ancora a Figueras non tornava indietro per questa strada, nonostante avesse appunto il suo autista di fiducia, e si fermava a dormire in questa stanza dell'hotel Duran, che era sempre riservata per lui, la 101. Claudia, ti ringrazio perché ci hai proprio fatto vivere un po' questa atmosfera, quindi è un percorso che ti senti di segnalare. Tra l'altro vogliamo ricordare che ci sono due opportunità in termini di aeroporto per chi viene per esempio dall'Italia, sia Girona, che forse è più comodo, sia la stessa Barcellona. Sì, ovviamente Barcellona è forse la città in cui arrivano più voli dall'Italia, però per esempio la Ryanair atterra a Girona, e in realtà se si vuole andare a Figueras è veramente vicinissima, molto più vicina ovviamente a Girona, perché in realtà Figueras è in provincia di Girona, Girona è la provincia, quindi è comodissimo anche per un volo molto economico con Ryanair. Sé que te tengo. itinerario che ho amato molto, perché tu ti aspetti sempre la Spagna con queste spiagge affollate, invece ti ritrovi questi posti dove ci sono poche persone. È una Spagna bellissima. Ti devo dire la verità, io la Spagna la conosco pochissimo. Sono stata a Siviglia, sono stata a Granada, sono stata a Cordova, però conosco davvero poco. Questo potrebbe essere per me un incentivo, perché se mi dici che sono posti non poi così affollati, io non temo di portarci anche il piccolo mostro. Che poi Claudia ti consigliava di portare per i motivi che ci ha spiegato. Assolutamente, e soprattutto perché penso che stimolare i bambini sulle immagini, sulla cultura in generale, sia sempre importante, perché quando meno te lo aspetti poi lo tirano fuori. Abbiamo detto che siamo mistiche, dove mi porti per chilometro zero? Adesso sentirai. Chilometro zero. Dicevamo che siamo nel pieno del mese di luglio, molti sono ancora in città a lavorare, il weekend, così come i giorni di riposo in mezzo alla settimana, per chi lavora su turni come noi, per esempio a Narita, possono essere l'occasione per andarsene un po' in giro a scoprire qualcosa di bello. Questa settimana ho scelto l'Abbazia della Novalesa, fondata nel 726, quindi siamo tra l'VIII e il IX secolo, dedicata ai Santi Pietro e Andrea. Il complesso è composto dalla chiesa, il chiostro e quattro piccole cappelle. È immerso nel verde. Si possono fare delle visite guidate, ma in generale l'accesso è libero. Allora, come ci si arriva? Da Torino si prende l'autostrada per il Frejus, si esce a Susa, si imbocca la strada per il Moncenisio e si seguono le indicazioni per Novalesa, che è un centro piccolissimo, pochissimi abitanti, un comune proprio piccolo piccolo. Un'oretta da Torino, è un posto davvero incantevole, anche perché sembra di tornare proprio indietro nel tempo, quindi se si vuole staccare la spina è l'ideale. E poi, per chi non conosce queste zone, sono zone davvero piene di sorprese, anche perché Susa è molto carina, ma in realtà tutta la zona del Moncenisio è davvero molto bella. A partire da questa seconda puntata noi vogliamo dare dei consigli a tutti coloro che viaggiano con i loro amici a quattro zampe. Daniele Dodaro, ricercatore e co-founder di Squadrati, che conduce ricerche di mercato e ha condotto una interessantissima ricerca di mercato per Royal Canin Italia sulle vacanze con gli animali. Ecco, quali sono le mete ideali? Sicuramente in Italia la vacanza ideale è in Italia e non all'estero, probabilmente le ragioni sono da ricercare nel mezzo di trasporto, cioè l'aereo, che non è esattamente pet friendly. Vacanze in Italia, in particolare il nord-est, è considerata l'area geografica più pet friendly, è spinta molto dall'Emilia Romagna, che è considerata la regione più pet friendly, quindi comunque con più servizi per cani e gatti. Pensiamo anche alle spiagge magari dedicate, e anche il Trentino Alto Adige è percepita come una regione, diciamo, pet friendly. Invece Maglia Nera va un po' alle regioni del sud e delle isole, ma anche alla Liguria. Si tratta sempre di assenza, diciamo percezione da parte dei viaggiatori di assenza di strutture e spiagge attrezzate, quindi pensate per cani e gatti. Grazie allora a Daniele Dodaro per i suoi suggerimenti. Noi ci fermiamo, ma torniamo tra pochissimo. Globetrotter 24. Narita, meta italiana. Questa settimana ho scelto le isole Egadi, Favignana, Marettimo, Levanzo, le tre più grandi. Questo che state ascoltando è il coro delle isole Egadi, che sono meno conosciute delle Eolie, meno mondane, più selvagge. La prima volta mi ero convinta che fossero delle isole poco adatte ai bambini, poi però sono stata smentita proprio da mio figlio, che dopo essere stato a Favignana mi chiede spessissimo di tornarci. Per farci dare qualche dritta ho chiamato il sindaco dell'arcipelago, che anche in questo, diciamo, è un esempio virtuoso, perché il sindaco è sindaco di tutte le isole dell'arcipelago Lago delle Egadi ed è anche il presidente dell'area marina protetta. Benvenuto a Giuseppe Pagoto. Ci dica subito perché bisognerebbe scegliere, secondo lei, di venire in vacanza, non solo in vacanza, nelle Egadi. che ne vale la pena, perché prima di andare a scoprire dei posti meravigliosi che ci sono fuori dall'Italia, secondo me è indispensabile visitare i posti che in Italia meritano di essere visitati, e tra questi secondo noi le isole minori e nel caso nostro le isole Egadi, per trascorrere una vacanza non soltanto diciamo dedicata al mare o soprattutto legata appunto al mare, alle spiagge, alle coste, ma anche per visitare beni culturali di rilievo, di pregio, degustare piatti e pesce tradizionalmente insomma fresco. Quindi dico, ritengo che sia insomma indispensabile per chi vuole avere, quantomeno vuole provare a fare una vacanza italiana e in un'isola. Senta sindaco, la prima cosa che almeno per me, perché quando sono venuta a vedere le vostre isole mi è saltata all'occhio è diciamo la relativa facilità con cui si raggiungono le isole, perché una volta arrivati a Trapani davvero il percorso è molto semplice e anche molto breve. Sì, in realtà si arriva facilmente con l'aereo sia su Palermo che su Trapani, addirittura c'è l'aeroporto distante 20 minuti dal porto di Trapani e ce ne vogliono altri 20 minuti per raggiungere Favignana e poi le altre isole di Levanzo e di Marettimo. Quindi è molto facilmente raggiungibile, quindi insomma si può partire la mattina presto e si arriva già per la prima mattinata, si arriva già a fare il primo bagno, insomma siamo abbastanza fortunati. Altra cosa, la prima volta che sono venuta nelle Egadi la mia prima meta è stata Levanzo e le devo dire che quando sono arrivata la cosa che mi ha colpito è stata l'acqua. Io mi ricordo perfettamente il colore dell'acqua davanti all'attracco al porticciolo di Levanzo. Di solito i porticcioli nel nostro caso sono più ripari che porti importanti, di solito insomma sono le acque non sono mai belle. Noi abbiamo la fortuna che anche in queste aree, soprattutto a Levanzo, ma anche a Marettimo direi, ci sono, hanno colori, hanno insomma i fondali, insomma sono poco utilizzati, sono caratteristici, ne vale la pena vederli. Però devo anche dirle che non sono proprio delle isole molto semplici per quel che riguarda i bambini. La seconda volta sono stata a Favignana, devo dire che però che in quel caso mio figlio si è innamorato dell'isola subito, anche se l'accesso non è proprio facilissimo. Sì, la particolarità delle isole Egadi è che le isole sono diverse fra loro. Marettimo per esempio è una cosa che non riusciamo noi a comunicare bene, ma ne approfitto. Marettimo è una, oltre ad avere una costa e delle grotte meravigliose e strepitose, ha una montagna eccezionale, quindi per mai nessuno, a Marettimo si fa trekking come si fa sulle Dolomiti per esempio, e trovare in un'isola anche questa opportunità non è facile. A Levanzo ci sono delle aree eccezionali che possono essere visitate anche a piedi. Favignana è che è più accessibile per le famiglie e per i bambini, va meglio perché l'isola è pianeggiante, quindi è più facile diciamo per chi ha bambini insomma utilizzare e accedere alle cale, che sono tutte quasi di libero accesso, sono tutte di libero accesso, uno ci arriva con la bicicletta, con la macchina, con il motorino, insomma ci arriva come vuole. E le isole sono diverse, hanno delle caratteristiche diverse appunto per un turismo che vuole visitarle tutte, perché in realtà passare qualche giorno nelle Egadi ne vale la pena, anche perché appunto si possono visitare isole diverse che possono offrire anche insomma opportunità diverse. Senta sindaco, io devo però un po' sfrugogliarla su quelle che sono le pecche di soprattutto di Favignana, perché è un'isola davvero molto bella, anche molto selvaggia, e questo fa parte del suo bello, però in certi punti forse è un po' troppo selvaggia, cioè quel selvaggio che scade un po' nell'incuria. Allora, questo è chiaro, gestire, controllare, fare manutenzione, cioè pulire isole minori, soprattutto quando sono molto grandi, nel caso di Favignana per esempio, senza affidarla a privati, e su questo noi negli anni abbiamo mantenuto una certa linea, se noi vorremmo lasciarla così, nel senso ci sono gli investimenti privati in alcune aree, però l'isola poi è bella da essere vissuta perché secondo secondo noi in qualunque momento, anche in pieno agosto, uno trova uno scoglio o una caletta per farsi il bagno in tranquillità. È chiaro che puntando su questo rischiamo ogni tanto di avere qualche defaianza, se così può dire, soprattutto nelle aree meno frequentate, e questo purtroppo è difficile, lo cerchiamo di migliorare. Abbiamo avviato per esempio una polizia straordinaria di tutto il territorio, eccezionale, ci sono tanti campi di volontariato, tante persone che ci aiutano, tante iniziative belle delle associazioni ambientali. Speriamo di migliorare sempre di più, ecco, è chiaro. Non è facile, ma comunque insomma questo è l'obiettivo, non trascurare niente, però ci può stare. Ecco. L'ultima parola sull'area marina protetta. Sì, noi gestiamo per conto del Ministero dell'Ambiente l'area marina protetta dell'Egadi, che per noi è un fiore all'occhiello, non credo, non soltanto per noi, ma credo per il Ministero, ma è un patrimonio insomma italiano importante, una delle più grandi, è la più grande area marina protetta d'Europa per estensione. Ecco, Sindaco, io vorrei proprio chiederle, perché chi viene in queste isole molto spesso magari affitta una barca oppure insomma in qualche modo si muove per via mare, a che cosa deve fare attenzione? In realtà chi va per mare e affitta la barca, per esempio io penso alle barche a vela per esempio, ma anche altri tipi diciamo anche a motore, è chiaro che di solito presta molta attenzione alle caratteristiche e ai luoghi che va a visitare. Nel caso nostro deve prestare attenzione, è chiaro, non avvicinarsi in alcune aree, poi ci sono a seconda la tipologia del luogo, cioè se zona A, zona B o zona C, addirittura non abbiamo la zona D, ci sono delle restrizioni particolari, non tanto importanti, perché avendo questa grandissima area marina protetta ci ha consentito di organizzare abbastanza bene le aree, quindi è chiaro che chi fa diporto, chi arriva con la barca, diciamo, ha poche diciamo, restrizioni e più opportunità. Ci sono capitelli dell'area marina protetta dove diciamo boe, dove stare bene, dove sia per andare diciamo nelle cale più importanti che anche per stare la notte in rada, quindi diciamo che le opportunità sono tante. È chiaro, c'è da ritirare un'autorizzazione che si può fare online collegandosi al sito dell'area marina protetta. Sono molto più le opportunità e le cose positive che alcune restrizioni che ci devono essere, perché è chiaro che se vogliamo avere dei risultati anche di natura ambientale, vogliamo tutelare la Posidonia, la flora e la fauna che sono il nostro patrimonio più importante, non solo quello nostro come Egadini, ma insomma penso di tutti, quindi insomma ci sono un minimo di restrizioni, insomma di buoni comportamenti da seguire, insomma che noi insomma ci teniamo particolarmente. E le multe sono salate? Le multe sono salate quando uno commette, insomma, ma alle multe speriamo di non arrivarci, insomma, con la sorveglianza, con il controllo, con la prevenzione, le multe poi sono l'ultima cosa. L'ultima spiaggia. Grazie al sindaco Giuseppe Pagotto, sindaco delle Isole Egadi. A voi e vi aspettiamo alle nostre isole. Che posti meravigliosi, Valeria, mi hai fatto venire una voglia. Senti, ma sono cari? Sono costosi? Sono sempre quella che ti fa le domande sui prezzi. Beh, questo è assolutamente giusto. Allora, Narita, rispetto alle Eolie, come già dicevamo, essendo isole meno mondane, sono anche meno costose. Certo è che sono sempre delle isole, quindi gli approvvigionamenti sono più difficili e tutto quello che trovi sull'isola costa mediamente di più rispetto alla terraferma. Però devo dire la verità, vale proprio la pena, perché l'acqua è fantastica. Io il colore, come sentivate anche nell'intervista, il colore dell'acqua di Levanzo non l'ho mai dimenticato. E allora ci devo andare assolutamente. Anna Rita, però per chi resta in città, dove mi porti? Chilometro zero. Chilometro zero, Abbazia di Casamari, perché abbiamo detto che siamo mistiche in questa puntata. È un'abbazia che si trova a 99 chilometri da Roma, in macchina circa un'ora e 20 minuti, in provincia di Frosinone. L'ingresso è gratuito, però c'è un'offerta per i monaci e per i gruppi, soprattutto è necessario prenotare. Poi c'è un negozio molto bello all'interno dove si vendono i prodotti che realizzano i monaci, dalla grappa alla propoli. Italy, che per noi che lavoriamo in radio per la gola ottima. È un prodotto importante. Poi c'è la cioccolata, c'è un tipo di cioccolata, anche quella ottima, assolutamente speciale. Si trova per la precisione nel territorio del comune di Vero, lì a 9 km dal centro, sulla via che si chiama Maria, la via Maria, che è raggiungibile facilmente anche dall'autostrada Frosinone-Sora, e fu edificata sulle rovine di un antico municipio romano che era dedicato alla dea Cerere. Il nome Casa Mari è di origine latina e significa casa di Mario, perciò la via si chiama Maria, che perché questa zona era la patria del console romano Caio Mario, celebre condottiero che era un acerrimo nemico di Silla. È un posto bellissimo, fu costruita nel 1203, somiglia ai monasteri francesi, c'è anche la stessa quiete, la stessa atmosfera, e sono anche molto interessanti la biblioteca ed il museo, che è ricco di opere d'arte. E per me che sono nata a Roma è davvero una pecca non esserci stata, però lo devo ammettere, non ci sono mai stata. La prossima volta che tornerò giù a trovare i miei sarà, se riesco, sarà una meta assolutamente da vedere. Perché secondo me nell'ultima puntata noi faremo una vacanza insieme, solo io e te. Chissà, potrebbe. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori, alla prossima. E no, Anna Rita, ci dimentichiamo tutte le volte. Dobbiamo dare l'indirizzo di posta elettronica: globetrotter24@radio24.it. Se volete scriverci indicazioni, commenti, suggerimenti, noi siamo sempre qui a leggervi. E poi i ringraziamenti d'obbligo in questa puntata a Carmelo Lauricella e Andrea Roccabella, che ci hanno seguito in regia.